con Eleonora Zamparutti di arte.it per parlare del documentario Salvador Dalì, la ricerca dell'immortalità di David Pujol dal 24 al 26 settembre in sala. Eleonora, ben trovata. Ciao Federico, ben trovato. Descrivicelo. Allora, un film che è nelle sale proprio in questi giorni, oggi, il 24, domani e dopodomani, ed è un ritorno della grande arte al cinema. Dopo la stagione fortunata dei mesi scorsi, che si era interrotta durante l'estate, ritornano questi film documentari dedicati all'arte. Considera Federico che è stata una stagione molto felice quella scorsa perché Nexo Digital ha divulgato i dati, ci sono stati oltre 650.000 spettatori in sala e complessivamente 350 sale coinvolte nell'iniziativa. Quindi Una un scelta fenomeno. giusta, insomma. Direi di sì, anche perché è un fenomeno che nasce proprio nel nostro paese. Oggi Nexo Digital porta al cinema la vita di Salvador Dalì. Ricordiamo che il prossimo anno, nel 2019, ricorrono i 30 anni dalla morte. È un film prodotto, quindi un prodotto autorevole, perché è prodotto dalla Fondazione Gala e Salvador Dalì, Sì. spagnola. Ed è un bel documentario. Attraverso la voce del regista David Pujol, insieme alla direttrice del Museo Dalì e al coordinatore delle case Museo Dalì, si intraprende una sorta di viaggio nella vita, nei momenti più importanti della biografia dell'artista, e anche un viaggio nella ricerca artistica di Salvador Dalì. Fino dall'inizio, diciamo dagli esordi fino alla fine. Ed è anche un viaggio nella geografia di Dalì, perché come molti sanno, l'artista era molto legato ai luoghi della sua Spagna, in particolar modo Cadaqués, che era la città dove inizialmente dove era cresciuto, anche se era nato a Figueres, ma insomma era cresciuto a Cadaqués, Port Lligat, dove costruisce questo edificio molto bello sul mare, e Pubol, dove ha residenza invece il castello gotico che donò alla moglie Gana, e ovviamente Figueres, dove eresse il teatro Museo Dalì. Quindi è un bel documentario intenso che offre diversi spunti e chiavi di lettura sulla vita di questo straordinario, eclettico, eccentrico artista, che è tipicamente espressione di un Novecento molto tormentato e, diciamo così, è molto variegato, se si considera che, ad esempio, uno come Andy Warhol ebbe a dire che il padre della pop art era Dalì che nasceva come artista agli inizi del Novecento, no? Fu nel 29 che lui aderì al movimento dei surrealisti francesi. Prima a Madrid, durante il periodo di formazione, aveva conosciuto i dadaisti, Buñuel e García Lorca. A Parigi aveva incontrato Magritte, Breton, Éluard, ma anche Picasso e Miró. Quindi è un uomo che nasce all'inizio del Novecento, però lascia una lunga coda, una cometa che lascia una coda e ovviamente contamina anche l'arte della fine del Novecento. Sì. Tutto inizia nel 29, che è l'anno in cui aderisce al surrealismo e conosce Gala, quella che diventa poi la compagna della sua vita, nonché musa ispiratrice, e che rimase al suo fianco per tutta la vita. Gala, forse in un certo senso, rappresentava il lato razionale dell'uomo Salvador Dalì, mentre l'artista si era, diciamo, concesso questa grande libertà di esplorare, secondo quello che lui definiva il suo metodo paranoico critico, esplorava il subconscio. L'adesione al surrealismo, l'uso anche di un forte simbolismo nella sua pittura, ne sono l'esempio, no? Ci sono queste Sì. figure ricorrenti, l'elefante, la chiocciola, gli orologi molli, l'uovo. Al di là di tutto questo, di questa grande fantasia, questa grande immersione nel subconscio, nell'irrazionale, va detto che Salvador Dalì nasce come abilissimo disegnatore. Lui si rifece per tutta la sua vita alla tecnica classica. I suoi maestri erano i maestri del Rinascimento, il Bronzino, Vermeer, Velázquez, Raffaello, tra i tanti. Come Raffaello aveva, si dice che avesse come musa ispiratrice la Fornarina, così Dalì disse: io ho la mia Gala. Come trovare un parallelo con un grande maestro del Rinascimento. Però nell'arco della sua vita esplorò, fu un artista dotato di grandissima curiosità, ecco, esplorò vari linguaggi, fu sempre aperto all'uso di linguaggi diversi e, diciamo così, cercò in un primo tempo, si ispirò ai paesaggi della Spagna, che era il terreno da cui nasceva. Poi fece propria diciamo, la lezione del surrealismo, cercò poi di iniettare il surrealismo nella tradizione. Più avanti invece andò alla ricerca esplorò, diciamo così, le strade del tema dell'immortalità e della perdita ineludibile del passato, soprattutto quando venne a mancare la moglie Gala. Quindi, insomma, è un viaggio intenso intorno ad una figura del Novecento molto, molto particolare, molto forte, anche dirompente e, se vuoi, per certi aspetti, dissacrante. Provocatoria. Sì, certo. Ma guarda, il fatto che fu figlio del Novecento lo dice molto la sua collaborazione con il cinema. Lavorò al fianco di grandi registi, pensa che addirittura coprodusse inizialmente un corto con Walt Disney, fece le scenografie dei film di Hitchcock. Hitchcock vedeva in Dalì il più grande artista capace di esplorare l'irrazionale, l'inconscio. Dell'opera di Dalì si interessarono molti, non ultimo Luchino Visconti. E quindi è un bel viaggio attorno a questi luoghi, anche non solo legati alla Spagna, ma città del mondo come Parigi, dove trascorse buona parte, soprattutto della sua prima fase della biografia, New York, che rappresentò il futuro e dove trovò anche dei mecenati che sostennero la sua arte acquistando le opere che esponeva, visse a New York per 8 anni durante la guerra. E ovviamente anche l'Italia, per dire, il giardino di Bomarzo vicino a Roma fu fonte di ispirazione per l'allestimento del giardino del castello di Puboll, che regalò a Gala. Tra l'altro fu in Italia diverse volte lui. Sì, certo, era molto legato all'arte italiana, chiaramente, come dicevo, al Rinascimento. E come dicevi tu, un'espressione importantissima del Novecento, e come ricordavi, dagli inizi del surrealismo è stato poi a contatto con le maggiori personalità del mondo artistico internazionale. Due sono gli aspetti che sono ulteriormente interessanti di questo documentario. Il primo è che mostra diverse sue opere, e l'altro è che sono i materiali d'archivio. Sì, certo, il film è realizzato con una grande quantità di immagini, foto d'epoca, tra l'altro molto belle, e dei filmati video che coprono praticamente tutto l'arco della vita di Salvador Dalì. Ed è anche un po' intrigante, se vuoi, il finale, in voglia, io non svelerò. Che cosa si dice alla fine? Però, insomma, sembra capire che tutta questa grande esuberanza, eccentricità, diciamo così, follia dell'artista abbia origine in una grande ferita che l'artista ebbe fin dalla nascita. Diciamo che a voler ricondurre tutta la vita in una chiave un po' drammatica è il nucleo familiare, la sua origine, che insomma creò una turbativa non indifferente. L'artista era molto legato ad un'opera di Millet, l'Angelus, che ripropose in varie salse nel corso della sua vita, Sì. e alla fine si scopre che non c'è una grande differenza tra il tormento dell'anima, che però da lì seppe gestire in una maniera, diciamo così, entro certi binari, e quello di Vincent van Gogh. Tutti e due, insomma, hanno avuto dei problemi familiari, però va visto il film per capire quanto dramma c'è in Sì. quella fantasia, che però è una fantasia molto faticosa, che tocca appunto il tema della morte in maniera incessante, che si ritrova nelle opere di Dalì. Eleonora, sai in quante sale sarà? Guarda, credo 350 Ah, sale. grande numero. Sì. E allora ricordiamo Salvador Dalì, La ricerca dell'immortalità di David Pujol in sala dal 24 al 26 settembre. Un saluto e un ringraziamento ad Eleonora Zamparutti di arte.it. Eleonora, un abbraccio e un ringraziamento e a presto. Ti ringrazio moltissimo Federico, tieniti pronto perché di titoli ce ne sono tantissimi. A Qualsiasi... disposizione, benissimo. Alla fine del mese con Michelangelo in studio, Allora, geniale, a ti presto. divertirai. Un saluto, a presto, grazie, Ciao. ciao.